24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Io penso che si sia chiusa una stagione politica, sì, penso che si siano chiusi 20 anni. Mercoledì scorso ritengo che si sono chiusi in modo politico. Si è chiuso il ventennio. Cari italiani, buongiorno. Questo è 24 mattino. Faccio finta di essere così, ma mi sono svegliato con un'aria un po' di decadenza oggi, no? Finito il ventennio, Berlusconi forse chiede i servizi sociali, Don Mazzi gli dice vieni a pulire i cessi da noi, al giornale si arrabbiano, più rispetto per uno che deve andare in carcere o comunque, non lo so, sarà questo? O saranno le 10 pagine sui giornali dedicate alla politica? Io volevo nuclearizzarmi sulla scrivania oggi, quando ho visto i giornali tutti aprono Alfano, Letta, Berlusconi, i lealisti, i fedelisti, i sanfedisti, i carrieristi, i poltronisti, tutta la divisione, 7 pagine, il PD, Rosi Bindi cosa fa? Non appoggio nessuno. Rosi Bindi, pagina 4 di Repubblica, pagina 3 di Repubblica, un'intervista di un'intera pagina a Franceschini. Mi è venuto... Sarà queste cose qui, sarà forse perché il Milan ha perso ancora con la Juve, non lo so, ma mi sono svegliato, sono venuto qui, ho detto sarà il tempo bigio di Milano, non lo so, mettete insieme tutte queste cose, cari italiani, fate qualcosa per me, 349-238-6666, mandatemi un messaggio, anche gli juventini, accetto tutti. Va benissimo, e apriamo subito il Parlamento dopo che ha salutato Miriam Lucchetti in redazione e il nostro alpino Peter Bescape. Io non lo voglio il caffè della Minetti. Tu continui, che forse hai preso anche tu i suoi favori. Trozzate col caffè della Minetti, noi non lo vogliamo dalla Minetti, brutto cretino d'un Milan. Ecco. Il nostro regista Peter Bescape, per esempio, ha pensato di tirarmi su così, ecco, con questo coraggioso augurio. Voglio salutare subito Vladimir Luxuria, buongiorno e bentrovata in questo lunedì molto frizzante, eccoci qua. Buongiorno. Tutto bene? Non ci sono? Se non ci sono. Sono pronta a ballare la decadence. La decadenza, oh, vedi già questo mi tira già su un po' il morale. Vincino, oh. Buongiorno Vincino, eccoci qua. Come va questo lunedì? Iniziato bene? Iniziamo bene. Bene, il busto di Andrea. No, aspetta, ora stamattina leggo che hanno arrestato un giornalista di 79 anni a Calabria. Mannaggia, sì, è vero. Direttore del giornale, non so come, sì, come si chiama, ma a 79 anni va in galera. Sì, è vero. Cioè, è un giornalista. No, poi, no, dire, è uno scandalo, è vero. Ma... Cioè, io ho 3 di quelle denunce là che sono un po' più giovane, per cui... No. Non so quanti anni mi farò. No, hai 3 denunce per diffamazione. Sì. E chi ti ha denunciato? È una l'ex onorevole dell'IDV, quella là bella che era sempre accanto a Di Pietro. Ma chi? Ah, la Mura. Non lo so come si chiama. Mura. Non la conosco, quella donna meravigliosa, non so perché ce l'ha con me. Te lo dico io, Silvana Mura, secondo me. Non lo so, dici che si chiama Silvana Mura, io non lo so. E ti ha diffamato. Non ti permetterei mai di attaccarla. Ti ha diffamato, avrai una querela, no? Non lo so, sì, io l'ho disegnata, ma come dire, con ingroia, ma come dire... Non... Vabbè, e poi chi è che ti ha diffamato? Chi è che ti ha denunciato per diffamazione? Questa è la più importante. Vabbè, le altre 2 chi è che ti ha denunciato? Basta, tu dici quei nomi, non sei uno di panza, per cui con te non si può parlare. Va bene. Non rispetti la privacy qua. Non rispetto la privacy. Già questi ce l'hanno con me per giunta. Ma così, sei tu che l'hai detto! Non l'ho detto, quella bella bruna simpatica che era sempre accanto a Di Pietro. E vabbè, era lo scranno a fianco a Di Pietro. Allora mi è venuto in mente. In aereo, da tante parti. Ma no, che in aereo! No, smettila! Sì. No, allora te ne vai. Te le vai a cercare. Tu hai detto era di fianco a Di Pietro, no, lo scranno. È che quando a voleva passare con ingroia e non ci riuscì. Va bene. Allora, 10 pagine dedicate alla politica. Com'è la decadence, Vladimir Luxuria? Come fa la decadence? Beh, è un ballo molto bello che insegneremo a Berlusconi qualora accetterà di venire a scontare i 9 mesi, che sono i 9 mesi di un parto. Anche, non lo so, un'associazione gay, all'Arcigay, potrebbe venire imparare a ballare la decadenza da noi. Attenzione, perché c'è l'invito, tutti ormai vogliono Berlusconi ai servizi sociali. Voi potete invitarlo formalmente? Certo, potrebbe venire all'Arcigay, potrebbe venire a fini educativi, potrebbe venire anche da noi, no? A imparare che, insomma, che non è così, così potrebbe venire da noi a fini rieducativi. Ha detto una volta che è meglio guardare le belle donne che essere gay. Ecco, potrebbe venire da noi in un ritiro spirituale, potrebbe dimenticare, diciamo, se almeno per 9 mesi le donne e venire da noi. Ma è un invito, è un invito ufficiale. Totalmente, poverino. È un invito ufficiale, lo vogliono proprio, voglio proprio fargli. Ma come? C'è l'unica cosa che gli rimane era guardare, mamma mia. No, vedi, proprio la cattiveria. Ma in poi questo è la momento. Quarta è la quarta volta che crolla, che, cioè, no, 2 anni fa a tirare le monetine tutti al. No, ma infatti attenzione, attenzione, perché 8 anni fa, madonna mia. No, ma attenzione, perché infatti è finito un ventennio, ecco. L'hanno già detto 7 volte. Hanno già detto 7 volte. Quante volte l'hanno dato per morto. Da notaio così, che proprio ha fatto la cosa di notaio preciso. Di notaio, il ventennio. Anche per Vladimir non è davvero finito. Ma guarda, quante volte l'hanno dato per morto ed è sempre risorto. Io aspetterei intanto il voto, poi soprattutto se lo fanno in maniera segreta, insomma, aspettiamo prima. Aspettiamo, io, aspettiamo. Non dire gatto se non l'hai nel sacco, come si dice. Esatto. No, Trapattoni diceva, credo, non dire 4 se non l'hai nel sacco. Trapattoni era così. No, in tutto questo l'unica che ci è rimasta sotto è la Micaela Biancofiore. Ragazzi, è quella che si è praticamente dimessa e non ha ritirato. Non lo so. Sentiamo la Biancofiore, cosa dice. La cosa mi fa sorridere, appunto, non ha altro da aggiungere, si commenta da sé. In ogni modo, visto che lui ha respinto le dimissioni di tutti i ministri della delegazione ministeriale, non si capisce perché io avrei dovuto ritirarle, quando lui in aula ha detto che ringraziava tutti i sottosegretari dimissionari e ringraziava anche per la fiducia. Quindi sono quisquiglie. Quisquiglie. Vincino, praticamente è l'unica che è rimasta fregata, cioè è stata dimissionata in diretta, non si capisce. Ma no, proprio perché lei è andata molto in televisione. C'è un altro sottosegretario, per dire, che era molto più berlusconiano di lei, che è Micichè, no? Micichè, sì. Micichè è stato salvato. È stato salvato, l'unica è la Biancofiore. Che l'unica è la Biancofiore, cioè non è che aveva 7 sottosegretari ultra berlusconiani. Tutti salvati, però la Micichè. Cioè tutti hanno ritirato. È andata in televisione quel giorno prima, ha fatto la scema. Là. No, io che lo la dicevo, scema? Stai buona, non lo fare, non farti notare, non farti cosare. Lei no. E via, fregata. No, ma infatti è l'unica che non ha ritirato le dimissioni. Ma anche la Minetti zitta, non parla più, Minetti bassa, via. E oggi, quando ho letto questa dichiarazione della Biancofiore a pagina 2 del Corriere della Sera, guardi, Letta forse pensa che io sia una deficiente. Ho detto, vabbè, andiamo avanti, perché sennò poi ci sono i commenti, ci sono le cose. E Vladimir Luxuria, l'unica che è rimasta fregata, è la Biancofiore, non ha ritirato le dimissioni, non si capisce. Hanno preso la palla al balzo e l'hanno fatta fuori, è un po'. Sai, dare della dimessa a una donna è la cosa più offensiva. Pensavo se lo dicessero alla Santanchè, credo che farebbe, non so, si arrabbierebbe molto. Sì, sì. Ma hai fatto, faresti pace con la Biancofiore? Era quella che aveva detto: i gay sono, cosa aveva detto? I gay sono una casta, i gay si ghettizzano da soli, sono appena. Ha detto di tutti i colori. Diciamo che lei ha dato le dimissioni e gli altri poi le hanno ritirate e lei non le ha ritirate, per cui Letta semplicemente ha preso atto del fatto che lei non ha ritirato le sue dimissioni. Non credo che sia una grande perdita, non credo che adesso si bloccherà l'attività politica per le dimissioni della Banca Fiore, sinceramente. No, vabbè, però è un po' una fregatura, cioè l'idea mi sa che siccome una falca, no, una falca, un falco, sia stata fatta fuori un po' per quello, cioè c'è un po' un repulisti adesso all'interno anche del Popolo della Libertà. Pare che Alfano voglia far rotolare metaforicamente la testa di Brunetta, Verdini, Capezzone e Santanchè. Insomma, qua. Questa è la, Non la possiamo chiamare la rinascita della Democrazia Cristiana, perché è troppo a sinistra dire Democrazia Cristiana. Però insomma, in questo nuovo, questa nuova creatura che sta nascendo, non c'è più posto né per i falchi né per le colombe. Sì, sì. Guarda che la Democrazia Cristiana di sinistra, cioè sì, proprio era solo una piccola parte, la maggioranza era una democrazia di molto centro, molto molto bene. Però Vincino, da quanti mesi? Cioè io la conosco dall'epoca di Tambroni, che Tambroni, proprio fece il governo Tambroni con l'MSI, che gli dava i voti, ma era una proprio, è sempre stata di ultimo, cioè noi da giovani combattevamo con pietre e con cose contro quella Democrazia Cristiana là. Con le pietre. Ora è un mito, là, la cosa. Come le pietre? Oh, Vincino, come comunque cose, là, con quello come Henry era il capo del servizio d'ordine e via. Là. Comunque, Vincino, da quanti mesi è che dicevamo qui, attenzione, torna la Democrazia Cristiana? Adesso tutti da a sempre, dire, torna. Da sempre. C'è questo magone che c'ha l'Italia da tanti anni, guarda, dal 90, là. Ah, non c'è più la Democrazia. Si pare che anche ieri, racconta i giornali, abbiano litigato fintamente Letta e Alfano, dopo che Letta ha definito il ventennio, Alfano sdegnato, ma poi via SMS, cioè Repubblica dice che sono così il patto dei quarantenni, litigare in pubblico ma rafforzarsi all'interno, no, e tenersi spalla a spalla, proprio la Democrazia Cristiana. San Fagnani, quando fecero fuori i piccioni là, De Gasperi e gli altri. Sì. Allora, Vincino, è stato colpito, e anch'io, da questa notizia. Un giornalista di 79 anni, Francesco Gangemi, giornalista direttore del Dibattito. Tra l'altro è stato anche in passato, all'epoca di Tangentopoli, qualche mese sindaco di Reggio Calabria. È stato arrestato dalla squadra mobile che si è presentata a casa sua perché deve scontare una condanna per diffamazione, ne ha accumulate altre di condanne, non ha, tra l'altro non ha, si è rifiutato di chiedere le concessioni delle misure alternative. Guarda te, tante volte il caso, no? Corsi e ricorsi storici. È stato arrestato, è stato portato in carcere, Vincino, ha quasi 80 anni, il figlio dice sta male. Drammatico, perché questa l'invalidità al 100%, ma poi così se ne fregano tutti, sì, completamente, cioè nessuna grazia, nessuna cosa. Noi non sappiamo, poi, non sappiamo se le diffamazioni. Dopo 70 anni non si andava più in carcere. Ma infatti, in genere, dopo 70 anni. Forse lo fanno per impedire di buttarsi, non lo so, io devo fare. No, perché dice che il giudice dice ha omesso di presentare l'istanza per la concessione delle misure alternative. Sei sempre un giudice tu, no? Sì, e tagliala tu la cosa, no? E che fai? Sono terribili questi magistrati, soprattutto anche giù, Credere, magistrati, guarda, non ho nessuna anche fiducia giù, nella magistratura, sopra, sotto, a nessun lato. Guarda. Ma dai, ma perché adesso? È così, questo, un magistrato che manda in carcere una persona, un giornalista onorato, direttore di giornale di 79 anni, perché ho omesso di dire qual era la sua fonte per dire che quello era un ladro o che quell'altro magistrato era un corrotto Noi non lo sappiamo il perché ha accumulato una serie di condanne per diffamazione. Io leggevo quel settimanale ogni settimana, tu no, ma io sì. Io non entro nel merito, non conosco la vicenda, però so che Si entra nel merito sono sempre, guarda, è sempre peggio per loro, per i magistrati, per i politici, per i cosi. Sì, però lui è stato condannato 8 volte per diffamazione. Ho capito, ma anche Berlusconi è stato 13 volte, è sempre onesto, eccetera. Non ho capito. Questo è un po' così. Andiamo al traffico, va, che è meglio. 24 mattino. Il popolo italiano ormai diventati sono proci, puttane, ruffiani, interlazzatori, poltroni, voltagabbana, carrieristi, tiracampaisti, blabbaisti, fruttatori, evasori, fancazzisti, menefreghisti, ok? Cialtroni. Il 2 ottobre sarà la festa dei cialtroni. Alino, ai ai ai, colpo di scena! Caro Milan, anche questa volta ce l'hanno messo in quel posto. Hanno fatto finta di litigare fra di loro e poi ci hanno messo l'IVA, sereni, e noi la prendiamo in quel posto. Ma che bel paese che siamo. Avanti così, ce n'è ancora un pochino di spazio per metterci ancora su qualcosa. Vai! Ciao Alessandro, ma sai qual è lo stilista preferito di Berlusconi? Volta e Gabbana. Abbiamo uno Stato questo antropofago ci stanno sbranando vivi. Alessandro, ma quando è che inizi a parlare? Oggi praticamente ci sta solo pubblicità per radio. Dai, sbrigati. L'unica soluzione che abbiamo noi in Italia è essere commissariati. La Merkel è una donna, ma ha sotto due maroni che fanno impressione. I nostri hanno sotto le palline, quelli di vetro, ma appena appena. Bella, buongiorno Milan, senti una roba, amico che fare tutti i giorni con maiali, lavoro in porcellaie, ma i maiali che c'è, governo, quanti maiali che c'è? Poi ti volevo dire un'altra novità, il vero Monti che ho qua e non chiama più, e la Fornero l'ha fatto 9 maialini, e mi è 40 anni che lavoro e la pensione non me la danno questi bastardi, hai capito? Invece i maiali le litiga sempre. Ciao Milan, stammi bene. E saluta tutti i maiali lì a governo, che te che sei un po' a Roma, a Milano, ciao ciao! Vabbè. No, ma Vladimir Luxure, non so se hai capito, questo ha un maiale, l'ha chiamato Monti. Ma lei è maiale Fornero, ma... Ma sai che stavo riflettendo su una cosa, secondo me questo Berlusconi alla fine riuscirà a livello comunicativo... Sì. Andrà in galera, cioè andrà a Palazzo Grazioli, dove diciamo ci avrà, proprio dove sarà lì. Sfrutterà tutta questa immagine. Alla fine dei 9 mesi, lui riuscirà come grande eroe che ha fatto. Secondo me ritornerà a essere, insomma, votato, amato. Ma non lo potrebbe sfruttare molto bene questa storia a livello comunicativo, come un po' la vittima, il martire, e riuscire fuori come quello che poi ha scontato la pena e ritorna di nuovo. Non lo so. Dove andrà? Poi da ma no, Palazzo Grazioli no. Altri, andrà da Don Picchi. Dove andrà? Dai radicali. All'Arcigay. Ma cosa dovrebbe fare l'Arcigay, Vladimir? Cosa dovrebbe fare l'Arcigay lì? Sta lì, racconta le barzellette sui gay. Cosa deve fare? Ma no, può preparare le confezioni. Non so, potrebbe dei Deplian contro l'omofobia, potrebbe preparare, cotonare qualche parrucca, non so, qualcosa gliela diamo da fare, dai. No, Vincino, l'immagine di Berlusconi che cotona una parrucca all'Arcigay. Questa è l'unica. Che appena scatta la decadenza con il voto del Senato, ci sarà un procuratore che gli manderà in mano di cattura, perché lui ha una delle cose fondamentali. Ma non cade dal Senato, mandato di cattura. Lo votano col voto segreto, ma non decade. Segreto, ma come no? Ma certo che sarà il voto segreto. Cade il governo subito dopo. Dai, perché il PD ritira la sua parte, dai. Non decade, io faccio questo pronostico, non decade dal Senato. Tu Vladimir cosa dici? Decade, sì, dal Senato? Sono d'accordo con te Milan, anche perché adesso i sondaggi danno al PD il 30% e quindi devono trovare assolutamente il modo di scendere nei sondaggi. A discendere potrebbe essere quello di non far decadere Berlusconi con voto segreto. Secondo te Vincino decade? Decade. Secondo me decade. Il giorno dopo arriva un mandato, il giorno dopo l'arresto. I magistrati, ecco. Perché dei le tre cause per il mandato che lui ce n'ha una precisa, quella che rimina le prove fuori, quella che sta facendo da anni, lui per cui l'arresto immediatamente. Va bene, anche grazie. Come dire, non è il caso, no, va bene. Però mi avete risollevato il lunedì. Adesso chi se ne frega che il Milan ha perso? Questa è la verità. Grazie a Vladimir Luxuria, grazie a Vincino. Ci ritroviamo la prossima volta. È tempo di giornale radio, poi la rassegna stampa. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino, l'Italia si desta. Siamo qui alle 7:18 minuti, pronti a leggere i giornali con voi. Allora, cari ascoltatori, vi siete svegliati? Avete visto ieri le partite di calcio? Grande trionfo della Pro Sesto, primi in classifica, siamo primi in classifica, 6 partite, 0 gol subiti. Grande cuore biancoceleste. Allora, andiamo a leggere i giornali. Prima vi ricordo che avremo ospite l'onorevole e ministro Beatrice Lorenzin, ministro alla salute, parleremo di sanità oggi. Faremo a lei anche qualche domanda politica, vista la situazione del Popolo della Libertà, ma soprattutto di sanità, visto che è l'Italia delle tante sanità. Non esiste una sanità pubblica in Italia, esistono centinaia di sanità pubbliche. Dipende da dove siete nati, dipende da dove vivete.

Beh, diciamo che dopo la riforma del titolo quinto è che ha appunto riformato la Costituzione delegando alle regioni la maggior parte delle prestazioni sanitarie, noi abbiamo un'evidenza, e cioè che ci sono ovviamente tante sanità quante sono le regioni. Questo in alcuni casi può essere una fortuna, in altri un po' di meno, e quindi su questo bisogna lavorare ed è quello che si sta cercando di fare in questi anni, cioè di riportare un livello di standard di prestazioni erogate per i cittadini uguale per tutti, senza discriminazioni se uno nasce a Cosenza piuttosto che a Milano. Certo. Senta, lei aveva proposto di recente di fare anche un po' come una sorta di trip advisor degli ospedali, cioè questi siti in cui i cittadini possono dire qui in base a delle prestazioni si sta meglio, qui il servizio è migliore o peggiore, però non si crea anche in questo modo una sorta di classifica, cioè dovrebbe in un mondo ideale essere tutto uguale, non ci dovrebbe essere bisogno di un trip advisor degli ospedali. Esattamente, in un mondo ideale, però noi siamo in quello reale e in quello reale quello che dobbiamo dare è la certezza ai cittadini, o almeno la trasparenza del servizio che viene erogato. Io non penso ad una classifica tra i buoni e i cattivi, ma a strumenti di trasparenza che possano permettere poi agli operatori sanitari, alle aziende, allo stesso ministero di poter intervenire in quei reparti che funzionano un po' meno bene per capire le criticità che ci sono e risolverle. Noi abbiamo già oggi uno strumento che è al quarto anno e che è stato presentato proprio recentemente, che è la base su cui costruire un sistema di trasparenza ed efficienza più avanzato, che è il Piano Nazionale Esiti. E questo è lo strumento, ma quindi è uno strumento al quale lei chiede il contributo dei cittadini anche? Beh, la mia idea è che il Piano Nazionale Esiti, che oggi è un piano dove ogni anno tu hai la rispondenza attraverso l'analisi delle cartelle cliniche, cioè dello SDO quando uno esce dall'ospedale, della prestazione ricevuta, potenziandolo al massimo noi potremmo avere, perché ci sono già le tecnologie, la capacità di verificare reparto per reparto il sistema di efficienza di questo reparto, quante sono le guarigioni, quali sono le prestazioni avute. Se poi accanto a questo si inserisce anche un metodo di possibilità dei cittadini anche di poter dare, come avviene nei controlli qualità, la propria indicazione, se ci hanno ricevuto un buon servizio, una buona accoglienza. Sì. E come si sono trovati, questo credo che aiuterebbe moltissimo anche le aziende singole ospedaliere a verificare quelle che possono essere delle lacune, delle criticità in ogni singolo ospedale. Senta, ministro... E dall'altra parte dà ai cittadini anche la possibilità di sapere esattamente dove vanno a curarsi. Ministro Lorenzin, uno dei problemi sono i costi, cioè una siringa costa 3 centesimi all'ingrosso, perché le ASL italiane le pagano in media 7 centesimi? Cioè qual è il sistema per abbattere questa cosa che è uno spreco evidente? Il sistema è i costi standard, che è già legge dello Stato e che in questo momento è all'esame della conferenza Stato-Regioni. Nel momento in cui la conferenza Stato-Regioni lo licenzia, diventerà legge e diventerà prassi per tutte le regioni italiane. E un ASL che non si adegua? Nell'acquisto delle siringhe, anche delle prestazioni ospedaliere. Ma un ASL che non si adegua, cosa si può fare? Cosa si fa? La si commissaria? Cioè è una esattamente. Cosa... Laddove non c'è un adeguamento ai parametri, alla prassi determinata da legge e confermata dalla conferenza Stato-Regioni, quella ASL viene commissariata. Il commissariamento consiste in che cosa? Semplicemente nel fatto che viene accompagnata da manager esterni per poterla adeguare ai parametri di efficienza delle altre. Questo però guardi, nel sistema ospedaliero dove c'è efficienza c'è salute, dove c'è inefficienza non c'è salute. Però se ne è parlato tanto, ma quando potrà entrare a regime? Perché di questi costi standard se ne parla da un po' troppo tempo, ministro. Ma guardi, questo le fa capire i processi normativi e anche legislativi italiani. Io personalmente ho contribuito alla scrittura dei costi standard quando ero in commissione per la bicamerale e per il federalismo, quindi parliamo ormai di 3 anni fa, 4 anni fa. L'iter è stato molto lungo, ha visto una staffetta tra la conferenza Stato-Regioni e il MEF, il Ministero della Salute. Oggi è fermo in conferenza, io spero che la conferenza Stato-Regioni si impegni ad una approvazione nei prossimi mesi, nel prossimo mese, in 2 mesi massimo, anche perché questo due è mesi. Uno dei pilastri del patto della salute. Certo, si spera nei prossimi mesi. Senta, l'anno scorso, nel 2012, la spesa sanitaria, la spesa pubblica è stata di 114 miliardi. È vero che è la parte più corposa della spesa pubblica italiana. C'è il rischio e la possibilità che si riduca la spesa, poi si aggredisca anche la spesa pubblica lì nella sanità? Guardi, innanzitutto la spesa sanitaria non è la parte più corposa, è quella previdenziale. Lo scorso anno è stata di 110 miliardi. Noi abbiamo in questo anno fatto per la prima volta un'inversione di tendenza, cioè la spesa è andata a meno 0,087, non è cresciuta, anzi è diminuita. Credo che per i prossimi anni non si possa immaginare una nuova aggressione della spesa pubblica nel settore della sanità, che è già stato molto stressato, quantomeno non si può immaginare come operata dall'alto. Invece quello che si può fare, e io sono convintissima, lo abbiamo visto anche con una serie di simulazioni, studi economici sulle varie interventi, si può risparmiare ancora tantissimo con interventi fatti regione per regione sui servizi e sull'acquisto dei beni e servizi, cioè sulle centrali uniche d'acquisto. Ci sono ancora grandi margini di sprechi. Riducendo questi sprechi si possono investire il denaro risparmiato, ma parliamo dell'ordine di miliardi di euro, all'interno dello stesso sistema sanitario. Cioè quello di cui si diceva prima, cioè costi standard e gestione del centrale unico degli acquisti in modo da risparmiare. Ministro, ancora due domande sulla questione sanità, salute, poi vorrei fare anche qualche domanda politica. Mi ha incuriosito molto la vicenda del cosiddetto metodo Stamina, su cui anche lei si è pronunciata, cioè perché il Parlamento e lo Stato italiano deve investire credo 3 milioni per la sperimentazione di una cura o presunta cura sulla quale ci sono molti dubbi. Lei come lo spiega? Questa è stata una vicenda parlamentare, nel senso che nelle more del passaggio tra un governo e l'altro c'è stata una vicenda parlamentare che ha aperto questa strada della sperimentazione. Noi l'abbiamo razionalizzata, cioè abbiamo detto va bene la sperimentazione purché risponda ai requisiti di evidenza scientifica che sono propri di tutte le sperimentazioni cliniche in Italia e nel mondo. E c'è stato un comitato scientifico che ha dovuto analizzare non tanto la bontà del metodo, ma quello che ci veniva dato per poterlo rendere ripetibile, e questo comitato si è espresso in senso negativo. Quindi diciamo che la situazione adesso è in mano all'Avvocatura dello Stato, che ci darà un parere su come procedere. Ma nel senso che questi cioè si potrebbe bloccare tutto all'origine senza procedere nella sperimentazione? Guardi che noi siamo già in una fase avanzata, nel senso che il Ministero ha promosso la sperimentazione. Quando si promuove una sperimentazione ci sono degli step. Il primo step è quello, visto che stiamo parlando di un farmaco, di un trattamento, cioè delle cellule staminali, che è paragonabile a quello dei farmaci, ci devono essere dei requisiti per poterlo rendere replicabile. Ecco. Se mancano i requisiti è evidente che la cosa... La mia domanda è che ci sono 3 milioni stanziati per un metodo che fin dall'origine è molto discusso, cioè con questo principio bisognerebbe utilizzare soldi pubblici per sperimentare un po' tutto. E io sono abbastanza d'accordo con lei. Diciamo che nel momento che questa vicenda è entrata si è parlamentarizzata, quindi è diventata politica, ha perso quelle che erano le connotazioni normali delle dinamiche scientifiche. Dovremmo riportarla in quest'ambito, considerando il fatto che ci sono però, ricordiamocelo sempre, milioni di persone che soffrono e che vogliono avere delle speranze. Questo certamente. Noi dobbiamo dare la garanzia che quello che viene fatto è sempre fatto senza pregiudizio e senza nessun tipo di preconcetto iniziale, ma soltanto guardando l'evidenza. Ministro, due o tre domande politiche, perché la situazione, lei fa parte dei cosiddetti alfaniani, ecco, nella corrente del Popolo della Libertà. Intanto le chiedo, è d'accordo quando Letta dice che si è chiuso un ventennio berlusconiano? Ma io penso una cosa, che Enrico Letta abbia sbagliato ieri a fare quelle dichiarazioni, per il semplice motivo che, così come non si occupa del congresso del Partito Democratico, non dovrebbe neanche occuparsi delle vicende del Popolo della Libertà. Questo è a garanzia del Presidente, che rimane persona terza e permette di governare in un governo di larghe intese in cui tenere insieme anime così diverse non è semplice. Quindi si occupa, diciamo, del suo partito e non del PDL. A proposito di congresso, lei lo vedrebbe bene anche nel Popolo della Libertà? È un dibattito? Assolutamente no, perché non è questa la fase dei congressi. Quello che noi abbiamo fatto la scorsa settimana è stato un atto molto forte per dare la governabilità all'Italia. Noi siamo stati convinti che far cadere il governo sarebbe stato un errore per l'Italia, per il centrodestra e per lo stesso Silvio Berlusconi. Quello che oggi bisogna fare è garantire una governabilità al Paese, e quindi che noi costruiamo come PDL il nostro progetto politico per il governo dell'Argentese, e ci attrezziamo questo anno e mezzo per costruire un centrodestra alternativo alla sinistra e competitivo. Mettersi in una fase logorante, congressuale, interna, in questo momento, vorrebbe dire consegnarci a un destino peggiore di quello che ha visto il logoramento del PD in questi mesi, e questo farebbe l'altro che far indebolire ancora di più l'azione del governo. Quindi, insomma, il leader, noi abbiamo lei la dice... necessità di uscire dalla crisi economica in questi mesi, certo. Non di logorarci in estenuanti vicende interne. E tra l'altro lei dice il leader, quindi il leader è Alfano, cioè il leader del partito c'è ed è Angelino Alfano. Esattamente, è il nostro segretario politico, noi già ce l'abbiamo, insomma. E l'ultima domanda è questa: Berlusconi deve decadere da senatore secondo lei, oppure nelle more, nelle possibilità del voto segreto, può succedere di tutto al Senato? Secondo me Berlusconi, io spero che ci sia ancora la possibilità di dare diciamo adito a quelle che erano le richieste, che sono delle richieste legittime per ogni senatore, cioè quindi di accettare le pregiudiziali per una parte del ricorso alla Corte Europea. Ormai non è più possibile dal punto di vista della procedura. Questo rimarrà, diciamo, a un voto di coscienza dei senatori. È evidente che l'accelerazione su questa vicenda non è una bella pagina della democrazia italiana, ma non solo per Silvio Berlusconi, ma per quelli che sono i rapporti delle guarentigie parlamentari. C'è stata un'accelerazione, secondo me, dannosa per tutti e dannosa per il processo di pacificazione in atto in Italia. Sembra quasi che da una parte si voglia normalizzare i rapporti politici e dall'altra si faccia di tutto invece per mantenere questo scontro permanente. Allora, io la ringrazio, Ministro, grazie per essere stata con noi. Beatrice Lorenzini, il Ministro alla Salute, e che dire, dopo la pubblicità ripartiamo da che cosa? Dalla questione e dalle domande che abbiamo fatto sul tema salute, sul tema sanità. Con noi ci sarà il professor Giovanni Persico, che è direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria Federico II di Napoli, identificata come in questa, tra virgolette, classifica il nosocomio peggiore d'Italia. E ci sarà anche un giornalista di Repubblica che ha scritto un libro, La Mangiatoia, dedicato proprio agli sprechi nella sanità. 24 mattino. Ed eccoci qua, allora, alle 8:38 minuti, dopo aver avuto il ministro Beatrice Lorenzin, continuiamo a parlare di sanità. Lo facciamo con due ospiti. Intanto un collega, Fabio Tonacci, che è un giornalista di Repubblica, insieme a Michele Bocci ha scritto un libro che io ho qui davanti a me, edito da Mondadori, dal titolo molto esemplificativo La Mangiatoia, perché la sanità è diventata il più grande affare d'Italia. Buongiorno Tonacci, ciao. Buongiorno a tutti. Saluto anche il professor Giovanni Persico, che dirige l'azienda ospedaliera universitaria Federico II di Napoli. Buongiorno professor Persico, identificato e non sarà stato contento in questa, tra virgolette, classifica come il nosocomio peggiore d'Italia. Sono da lei, Persico. Prima però, Tonacci, vorrei chiarire una cosa. Io ho chiesto anche al ministro Lorenzin, voi citate per esempio i costi, no? Le siringhe che costerebbero 3 euro all'ingrosso arrivano a costare addirittura in alcuni casi fino a 60 euro, ma sono insomma, diciamo 7 euro, il 133% in più del prezzo normale. Come si elimina questo? Con i costi standard, dice il ministro Lorenzin. Solo che per ora è una grande mangiatoia, come scrivete voi. E quando ci saranno questi costi standard, Tonacci? Allora, sono fatto una cosa, 3 centesimi, non 3 euro. Tre centesimi, sì, no, 3 centesimi. 3 centesimi. Il prossimo anno siamo il paese rovinati, migliore, rovinati, Parigi. Altro che la Grecia, no, no. Certo. Però la questione, diciamo, nel merito è quella, e non riguarda solo le siringhe, facevamo l'esempio delle siringhe, 3 centesimi, 7 centesimi le ASL, ma ne abbiamo trovate alcune che le pagano 65 centesimi, che è il 2000% in più. Abbiamo visto, ad esempio, la levofloxicina, che è un antibatterico, insomma, per curare le infezioni. Se vado io a comprarla all'ingrosso costa 80 centesimi, in media le ASL costano 3,22 euro. Ecco, ma perché è permesso questa, perché si è arrivati a questa mangiatoia in Italia sulla sanità? Ma perché noi abbiamo raccontato, diciamo, il settore sotto tanti punti di vista. La cosa che più mi ha sorpreso è che la sanità, essendo un settore che drena 114 miliardi di euro allo Stato ogni anno, è il settore che, a differenza di altri, per esempio, spende più in beni e servizi rispetto agli stipendi, alle pensioni, come avviene per esempio alla scuola. Pur essendo quindi un settore dove i soldi escono, dove i soldi girano tanto e escono e devono uscire, perché comunque, insomma, la sanità è uno dei punti fondamentali di uno Stato, è anche uno dei settori meno dove la spesa è meno controllata. Se non altro è meno uniforme, no? Cioè, se ci sono dei picchi e delle virtuosità, anche immagino delle esperienze virtuose che fanno pensare che non siamo un unico paese dal punto di vista della sanità. Guardate, noi per raccontare, quando ci siamo, abbiamo raccolto tutto questo, insomma, un po' di materiale, no? E abbiamo cercato di dare una immagine della sanità italiana, che cos'è, come la possiamo rappresentare. Cioè, diciamo, l'immagine che abbiamo usato è quella di una cartina, non so se vi ricordate, ai tempi della scuola, le cartine medievali dell'Italia, quelle tutte colorate, divise in tanti stati, staterelli, calducati. Certo. Ecco, l'Italia della sanità è quello. Oggi non è un'Italia omogenea, e il direttore generale che avete invitato ce lo può confermare. E perché non c'è una tabella unica dei prezzi? Perché una siringa non costa lo stesso prezzo a Bolzano così come a Palermo? Perché era stata fatta la tabella unica, aveva approvato l'ex ministro Balduzzi, ma poi che cosa è successo? Che questa tabella non è entrata in vigore. Certo, si è fermata, come ha detto il ministro Lorenzin nella conferenza delle regioni, e poco fa ci ha detto: confido che venga ripresa, che nel giro di un paio di mesi possa essere attuata. Insomma, speriamo, noi siamo sempre ottimisti a dire speriamo davvero che questi proclami politici poi si traducano in realtà. Tonacci, allora vorrei sentire per un attimo appunto il professor Persico. Professore, intanto che effetto le ha fatto vedere che in questa classifica, ripeto, poi smentita, ma il dato di fatto è che il Federico II è stato individuato come l'ospedale, secondo i criteri scelti dall'agenzia Agenas, il peggiore in Italia, professore? Dunque, io mi fa piacere parlare oggi con lei di questo problema, perché ogni intervista, ne ho avute tante in questi giorni, sembra quasi che uno si debba giustificare per quella classifica. Ora, il sistema di valutazione dell'Agenas, se lo dice lo stesso direttore dell'Agenas, non serviva per fare le classifiche, perché sono dati decontestualizzati, quindi come tale non servono quasi a niente per fare una classifica. Servono invece, e questo serviranno anche a me, per migliorare in alcuni settori. Ecco, per esempio, lei avrà visto dalla quella classifica la percentuale dei tagli cesarei, gli infarti del miocardio. Ebbene, io sono andato a controllare questi dati e, per esempio, ho visto che, come spesso può capitare, anche l'Agenas può sbagliare, in quanto i dati che io sono disponibile in qualsiasi momento a darle sono totalmente sbagliati, e quindi, ma questo è in tutti i sistemi di valutazione. Allora io credo che tutti debbano sapere che i sistemi di valutazione servono solo per migliorare, ma non per fare classifica. Questo sì, però professore, esistono, l'ha detto anche il ministro Lorenzin, non una sanità pubblica, ma centinaia di diverse sanità pubbliche in Italia. Cioè, deve essere sfortunata una persona che nasce a Napoli rispetto che a Palermo, rispetto che a Milano, rispetto che a Bolzano? Le sembra giusto questo? No, non mi sembra giusto se fosse vero, ma non è così, perché ormai le posso garantire che la sanità... Io ho fatto il chirurgo per 40 anni, quindi non vengo, diciamo, pubblica amministrazione, ma sono stato un professore per 40 anni che faceva il chirurgo. E le posso garantire che ormai anche queste differenze tra nord, centro e sud, non ci sono, si stanno riequilibrando. Perché forse. Scusi, però il nomadismo delle persone che si vanno a curare in centri di eccellenza sia al sud che al nord, ma devo dire più dal sud al nord, non è una cosa che mi invento io. Assolutamente no, ancora c'è un certo nomadismo che è in fase di totale riduzione, e poi dobbiamo considerare che, per esempio, nella mia regione vengono anche a curarsi tantissimi cittadini calabresi, tantissimi lucani, eccetera. Quindi è una migrazione. Come dire, da sud a nord, per dal sud al nord, dal sud al centro, anche dal sud al sud, perché in fondo la Campania fa parte sempre del sud. È comunque un fenomeno in totale regressione. In totale regressione. Questo glielo posso garantire. Insomma, tenga presente che per anni. Si andava a Pisa per curarsi la tiroide, no? Credo che adesso nessuno i cittadini campani non ci vanno più. Allora, sentiamo le informazioni sul traffico, poi rientriamo con Fabio Tonacci, giornalista di Repubblica, autore del libro La Mangiatoia, insieme al collega Michele Bocci e con il professor Giovanni Persico. E allora siamo qui, le due Italie, o le tante Italie della sanità. Vorrei sentire anche gli ascoltatori. Alessandro da Reggio Emilia ci ha chiamato all'800 24 0024. Alessandro, buongiorno. Buongiorno a voi. Dica. Io faccio parte di quella categoria che ormai da anni viene massacrata da un punto di vista occupazionale, nel senso che io faccio un informatore scientifico. Sì. E ormai, come tutti, ho molto presente quello che sta succedendo in sanità. Sta succedendo quello che inevitabilmente doveva succedere. Cioè? Perché noi abbiamo troppi ospedali satellite, si figuri che per chiudere un ospedalino con un numero di occupati che varia in zone fino a 640 occupati, quindi che occupa l'intera comunità, è sì. Impossibile, perché sono voti da drenare e quindi è impossibile toccare. Cioè, dice, i problemi sono i troppi ospedali, troppi. Cioè, sono troppi e piccolini, centri di potere. Esatto, io stamattina vado a lavorare in una zona dove nell'arco dei 10 km ci sono tre ospedali che fanno le stesse cose. Tre ospedali che distano 10 minuti e un quarto d'ora dall'ospedale principale, che è completamente attrezzato per poter affrontare qualsiasi tipo di emergenza. E poi ci sono delle scelte scellerate da un punto di vista anche politico, perché già questa, voglio dire, Alessandro, il concetto è tre ospedali, immagino che siano anche, almeno questa è anche la sua opinione, dei centri di potere di controllo. Vorrei dare la parola a un altro ascoltatore che però ci ha chiamato come ascoltatore, ma mi dicono dalla redazione essere il direttore sanitario dell'ASL Cuneo 2 Alba Bra, Paolo Tofanini. Buongiorno, è giusto? Buongiorno a lei. Buongiorno. Lei ci ha chiamato l'ascoltatore per dire cosa? La più virtuosa è in questa, tra virgolette. Direi di sì, perché noi abbiamo una quota capitaria di 1535 euro per cittadino, contro una media del Piemonte di 1750 e una media italiana di circa 1900. Cioè di spesa? Allora, questo vuol dire, la quota vuol dire quanto costa brutalmente? Quanto viene pagato, sì. Quanto viene pagato dalla regione, quindi dallo Stato, alla SL, ogni cittadino per avere dei servizi. Quindi noi prendiamo su 200.000 abitanti circa, moltiplichi 1.500 per 200.000, ecco. Quanto è? Me la ridice la cifra? Quanto è la vostra? È circa 250 milioni. Ma se no, mi dica la cifra, la quota unitaria. Pro capite 1.535 euro per cittadino, che vuol dire che una SL uguale alla nostra dimensione del Piemonte e dell'Italia prende circa 30 milioni, 20-30 milioni più di noi. Sì. E noi crediamo di dare un servizio assolutamente decente, accettabile ai nostri cittadini, senza nulla togliere. Allora, se ce la facciamo noi con questa cifra, sì, il problema dei costi standard può essere trasferito alla quota standard per cittadino. E vediamo che magari gli sprechi che ci sono da altre parti è interessante. Potrebbero cominciare. Guardi, per esempio, la voglio chiedere, non so se il professor Persico, lei è a conoscenza di questa stessa cifra per il Federico II di Napoli. A Bra prendono 1535 euro per cittadino, sotto la media. Voi? Guardi, io abbraccerei e bacerei il direttore sanitario di Cuneo, perché ha posto il problema più importante. Che la Campania viene penalizzata rispetto alla quota capitaria, che è al di sotto di quella di Cuneo, perché ha la popolazione più giovane, il che naturalmente è un criterio totalmente discutibile, ma soprattutto ingiusto. Cioè, lei prende di meno? Prende di meno, certo, ma non io, perché... La Campania, la regione. La Campania, stiamo parlando della Campania. Sì, sì. Poi, scusi, se vorrei anche dire qualche cosa sulle siringhe, che ormai è diventato, come normative della sanità. Dunque, noi in Campania abbiamo una centrale unica di acquisto regionale, quindi diciamo che il direttore generale non può intervenire su quei prezzi perché sono prezzi fatti dalla centrale unica di acquisto. È chiaro però che le differenze, quando non c'è una centrale unica, dipendono anche dai risultati delle gare. E su questo io credo che abbia ragione il ministro Lorenzin. Se non si faranno i prezzi standard, le gare rappresentano una delle cose più ingiuste che esistono sulla faccia. Certo, perché uno la gara la può anche fare nel modo che vuole. Il risultato della gara può essere frutto di un accordo commerciale, e come tale naturalmente io poi posso scoprire che io ho comprato le siringhe a 10 centesimi e il collega di Bologna, di Cuneo o di Milano le ha comprate a 3 centesimi. Ma questo purtroppo, Tonacci, è un po' il problema dei costi. Mettere ordine di fronte a tutto questo non è facile, non c'è, come si suol dire, una soluzione unica e facile e reperibile. Però Tonacci, quello che per ora si è saputo è che davvero il titolo azzeccato è stata finora una mangiatoia quella in Italia. Cosa e quanto incide la politica su questo, come diceva il nostro ascoltatore? La politica incide tanto, incide troppo, ma a partire dalla scelta dei direttori generali, che sono scelti dalla giunta regionale, quindi sono la prima diretta emanazione politica. Si diceva: ma perché non si riescono a chiudere i piccoli ospedali? Che è vero, questo è un problema da un punto di vista soprattutto sia di spesa ma anche che di qualità, perché anche i vostri ospiti e tutti i direttori generali sanno che un ospedale, per funzionare bene, non può essere sottoutilizzato per una questione proprio che i medici, i chirurghi e chi lavora, il personale deve essere tenuto in costante aggiornamento e fare tutta una serie di operazioni e tenerle tutte sopra un certo livello. Nei piccoli ospedali questo spesso non succede, proprio perché sono piccoli, e allora poi perché non si riescono a chiudere? Perché i piccoli ospedali, gli ospedali sono posti da primario, sono posti da capi dipartimento, sono posti da infermieri, e chi è che poi rivendica quei posti là? È proprio la politica. Cioè, io ho assistito a delle telefonate da parte, per caso, su un treno una volta, di un candidato a diventare direttore generale calabrese, che ha passato 3 ore al telefono a chiamare tutti i politici locali di quella zona per cercare di capire a chi si doveva affidare per la nomina. Se la politica nomina i direttori generali, voglio dire, Persico, lei su questo ha qualcosa? Lei è stato nominato anche lei, immagino, dalla giunta regionale. Io sono un fortunato in questa discussione, perché io sono stato nominato sia dalla giunta regionale che dal rettore, dirigo un'azienda ospedaliera universitaria, quindi perlomeno due persone sono dovute mettere. Però capisce, secondo lei è normale che la legge prevede questo, che la politica scelga chi dirige un'azienda sanitaria? Dunque, adesso con la Balduzzi mi permetto di dire qualche cosa è cambiato, perché ci vuole un'apposita commissione di valutazione e poi di presentare una rosa sulla quale, quindi su qualche cosa è cambiato. Però sono perfettamente d'accordo che perlomeno bisognerebbe aver dimostrato, no, di saper amministrare correttamente qualcosa. Senta, io nel salutarla però, Persi, col dato sulla quota capitaria ce l'ha, dice è meno di quello di Cuneo, ma non me la ricordo. Comunque è meno di 1530, molto meno. Perché le ripeto, in Campania è così. Ecco, in Campania altre è così. Cose, io vorrei sempre in queste discussioni che la sanità venisse contestualizzata. Ah beh, certo. Sa che per esempio a Napoli la Campania è sotto piano di rientro. Sa che sì, è come no, è come no. Non abbiamo personale, no, ma lo so, questa è un'altra questione che tratteremo in un'altra puntata, se volete. Fabio Tonacci, grazie, ricordo La Mangiatoia in libreria, edito da Mondadori. Ringrazio tutti gli ospiti e ci troviamo domattina alle 6.30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. 24 mattino.